Mar Nero. Lasciare la banchina di Galata a bordo del battello a vapore Ankara era come iniziare una nuova vita. Con il nostro continente sembravano scomparire per sempre dietro di noi passato ed errori. Quel giorno mi sentivo baciata dalla fortuna. All'ultimo minuto mi era arrivata per posta la zoga dimenticata a Sofia. Era l'unico indumento pesante che avevo portato con me. Inoltre era bello, di lana bianca tessuta dai montanari di una valle del Pamir. Benché si portasse come una mantella, aveva lunghe maniche che scendevano fino alle ginocchia e che in inverno servivano da manicotto a fisarmonica. Come un'imbarcazione issa la sua bandiera al momento della partenza, così io indossavo la mia zoga, quasi a indicare che stavo salpando per un paese splendido di cui ancora una volta avevo sentito il richiamo. Forse anche la nostra Ford era contenta di lasciare il quartiere di Pera dalle vie lastricate, scure, sinuose e maleodoranti, del tutto simili ai budelli di Malta o di Marsiglia, vie strette dove i vecchi stanno seduti sulla soglia di casa, vengono calati i cestini dai piani superiori, la biancheria è stesa ad asciugare per la strada e qualche gatto osserva con occhio critico il traffico intorno. Forse la nostra macchina aveva ascoltato nella notte storie curiose raccontate dalla lunga Mercedes rossa che le era parcheggiata a fianco nel garage. Su quell'automobile era fuggito dai suoi nemici italiani il re Zog d'Albania. La limousine reale aveva a guisa di tappeto, di tappo del radiatore, un casco con corna di camoscio che reggevano un'aquila. Una targa, avvitata sul cruscotto, indicava che la macchina era un regalo di Hitler. Vi si leggeva una scritta in inglese: Buona fortuna ora e sempre. Di tutte le città che conosco, Istanbul mi sembra la più internazionale. Nessun'altra ha tante varietà di religioni, di abitanti, di mode, di stili architettonici. Vista dal mare, per esempio, Pera si staglia con un profilo da grattacielo. Anche Cristina era di buon umore. L'aveva divertita sentirsi chiamare signore dal commissario. Via via che ci spingevamo verso est, veniva scambiata sempre più spesso per un ragazzo, e non solamente dagli asiatici. A Delhi, l'elegante maggiore Gastrell aveva conversato con lei per una decina di minuti prima di rendersi conto di trovarsi al cospetto di una donna. Ancora una volta era proibito fotografare. Un buon motivo per riprendere di nascosto le fortificazioni medievali di Rumeli Hisar e più tardi gli strani battelli da pesca, con l'albero mozzato su cui un uomo in piedi osservava i pesci dall'alto di quest'unico trampolo. Al riparo dei pini marittimi di Terapia, gli austriaci ci salutarono agitando i tovaglioli. Il nostro console ci aveva informate che anche tre giovani svizzeri viaggiavano verso Kabul, ma era pronto a scommettere con noi che noi ragazze saremmo arrivate prime. Era effettivamente del tutto probabile, poiché i nostri concorrenti seguivano le lunghe e disagevoli strade dell'Anatolia e soprattutto non sembravano diffidare più di tanto degli dèi gelosi che si divertono a rovinare i progetti dei mortali. Essi sbandierano la loro meta con una grande Kabul dipinta sulla carrozzeria della macchina e permettevano che Sua Maestà la stampa, con le sue dita nere e unte, scrivesse dei loro sogni più cari. Inutile dire che da parte nostra non si commettevano simili errori. Ricchi di carbone ma non di petrolio, i turchi avevano fino allora indirizzato ogni loro sforzo nel costruire ferrovie, con il risultato che le strade lasciavano molto a desiderare. Da qui la nostra decisione di scivolare più lontano possibile verso est, trasportati dall'onda liscia del Ponto Eusino. Al pari di Léon de Thuriet, potevamo dire di voler navigare per il resto del percorso distese sulla schiena come Ulisse. Avremmo dunque seguito le coste della Turchia, prolungamento dell'Asia, immenso ponte teso verso la mano aperta della Grecia. Approdate a Trebisonda, avremmo raggiunto rapidamente il confine settentrionale dell'Iran o, secondo il suo antico nome, della Persia. Al London Hotel avevamo incontrato un ingegnere informato su tutto. Le sue indicazioni, che sembravano molto precise, combaciavano in qualche modo con le esperienze di un viaggio che già avevo fatto. La Turchia orientale era brulicante di spie arie. Egli lo sapeva, per certo. Andavamo incontro a noie tali che ci saremmo disamorate per sempre dei viaggi. La gente veniva arrestata, erano confiscati apparecchi e documenti, di sicuro sarete espulse, ma nell'attesa, in qualunque frangente vi troviate, non fate domande. Questo era stato il suo ultimo consiglio. Ma viaggiare è chiedere, sapere. Costruito in Olanda, il nostro battello aveva una sala da pranzo decorata con ceramiche blu di Delft, su cui erano disegnati mulini, zoccoli e berretti a punta. Sarebbe stato possibile dimenticare dove ci trovavamo se l'altoparlante non avesse diffuso a tutto volume musiche orientali, malgrado le preghiere e i sorrisi accattivanti che rivolgevamo all'inserviente incaricato di farlo funzionare. Avevamo iniziato a scrivere i nostri primi resoconti di viaggio, commissionati da un'agenzia di stampa. La nostra espressione era seria e di tanto in tanto ci grattavamo la testa in attesa dell'ispirazione. Benché avesse una più lunga consuetudine alla scrittura, Cristina lavorava con la mia stessa lentezza. Ambedue eravamo insoddisfatte dei nostri articoli, anche se la sua prosa era più scorrevole della mia. Una lode di Cristina alla mediocre cartella che avevo appena terminato, ammirava sempre tutto quanto facevo, mi indusse a confessarle: Cristina, sembra che non vediate in me altro che qualità. Ora finalmente credo di saperne la ragione. Le vostre critiche non sono mai dirette agli altri, ma soltanto a voi stessa. Perché accettate ognuno di noi senza mai esercitare il vostro diritto di giudicare? È giunto alfine il momento che voi sappiate chi realmente io sia. Proprio in questo istante ero preda di una bieca gelosia nei vostri riguardi, poiché mi è ben chiaro che di noi due voi siete l'uomo migliore. Ben presto, non appena avrete deciso di abbandonare quella paura che vi impedisce di essere voi stessa, diventerete una persona stupenda. E nonostante tale certezza, mi permetto di strapazzarvi, di maltrattarvi, di brutalizzarvi. E sarei io il vostro mentore? Ho la sensazione di essere un cieco che ha la pretesa di guidare un paralitico. Che farsa. Macchini, vi sbagliate. I miei libri sono ben lontani dalle tirature dei vostri e neppure ne esistono traduzioni. Una simile osservazione è infantile quanto il vostro desiderio di celebrità. I comunicati della Reuters sono tradotti in tutte le lingue e hanno senza dubbio un maggior numero di lettori del più sublime poema del secolo. Le vostre argomentazioni non provano nulla. State scrivendo articoli senza valore per sopperire a bisogni finanziari. Lasciate tale necessità a chi ne è costretto. Accettate l'assegno di vostro padre e dedicate più tempo alla buona scrittura. Perché vergognarsi di avere denaro? Le circostanze della vostra nascita hanno senza dubbio la loro ragion d'essere. Potrete semplificare al massimo il vostro modo di vita. Vi sarà sempre qualcuno che avrà meno di voi. Non potrete dunque mai essere in pace a tale riguardo. E d'altronde, la grandezza a cui mi riferisco è dentro di voi e non nei vostri libri. Oggi, a distanza di 10 anni, mentre sto scrivendo queste righe, penso che se lo scopo della nascita è vivere a lungo, allora sono io la vincente. Cristina, dato che non siete più fra noi, ma se, come credo, siamo destinate a manifestare quanto abbiamo capito della nostra natura più profonda, in tal caso siete voi ad avere superato la vostra prova. Per completare, per realizzare questa vittoria, avete prima dovuto esprimere l'angoscia di fronte ai disinganni della vita, alle limitazioni dell'amore umano. Mi sembra che il percorso durante il quale diamo forma agli impulsi interiori si sviluppi su un piano che è al di là dell'etica. Per alcuni esseri giunge il momento in cui, a dispetto di tutto, devono essere autentici fino al limite estremo, poiché infine si riveli la loro essenza, essenza che può essere espressa dalla morte o dalla vita di ogni giorno, da una qualità di amore materno, da un atto di eroismo, da una poesia autentica. Intuisco del pari che ladri, vigliacchi, dittatori, presuntuosi, miti, commessi, artisti, eroi possano manifestare un'umanità piena non appena abbiano consumato o superato le proprie connaturate particolarità. Il giglio, il rettile, il gatto o l'ortica sanno essere splendidamente, totalmente ciò che sono. Noi creature, tormentate da contraddizioni innate, siamo costrette a sciogliere quel groviglio che ci abita, a diventare semplici quanto basta per liberare la nota fondamentale del nostro nucleo interiore. Le modalità per giungere a tanto possono apparire amorali, Ma sento che comunque questo è bene perché noi uomini siamo qualcosa di più che entità morali. L'etica non è lo scopo della vita, può tutt'al più valere come scorciatoia verso la realtà. Soltanto esaurendo la propria peculiarità è possibile andare oltre, giungere al cuore del nostro essere. L'eroe è colui che è al centro di se stesso, sempre. Scrisse Emerson. Da tale centro, l'uomo felice non può essere strappato per nessuna ragione, per nessuna sventura. Se supereremo angosce, vigliaccherie, vanità, pazienza, coraggio, passione per uno scopo definito, amore per un solo essere, arriveremo allora alla nostra nota più profonda, al nostro centro. Il medesimo di ognuno di noi, suono silenzioso in cui confluiscono tutte le differenze, riducendosi in modo sostanziale, quelle differenze ritenute causa di divergenze e di isolamento. Cristina, non soltanto siete riuscita a esprimervi, avete anche sperimentato il vostro io più profondo, il centro, avendo infine vinto quel tormento che vi devastava. Dirò in seguito come giunsi a tale certezza. Inseguendo il sole, ci arrampicammo sul ponte superiore dove il telegrafista viveva solo nel suo mondo pieno di voci. Cassette di fiori ingentilivano la sua tuga, un canarino svolazzava in una piccola gabbia, nella cabina un grande fiore di morbido tessuto rosso si chinava su un battello di latte in miniatura. Quell'eremita aveva una natura gioiosa, ma fu con tono veramente preoccupato che disse: «Sono passati 8 mesi dalla morte di Kemal Atatürk. E occorrerebbero almeno altri 15 capi come lui per fare qualcosa di questo nostro povero paese.» Al largo di Zonguldak, sul cui litorale scosceso e verdeggiante una ferrovia porta il carbone e il ferro estratti nell'interno del paese, furono catapultati su alleggi in movimento alcuni telai di camion tedeschi e subito, dopo, bufali irrigiditi e pecore immobilizzate effettuarono voli librati. I primi animali presi per la parte centrale del ventre, gli altri per le zampe legate insieme. Numerosi uomini litigavano per salire sul battello, si arrampicavano lungo lo scafo aggrappandosi alle corde scivolose. Arrivati sul ponte si aprivano un varco tra la folla chiassosa e offrivano ciliegie, mirtilli, ceste, nastri e fiori. La nostra Ford divenne il bancone di un panettiere che, in piedi sul predellino, il pane ben disposto sul tetto, vendeva i suoi prodotti ai passeggeri del ponte di coperta. L'Ankara gettò l'ancora anche davanti ai porti di Inebolu, di Sinop, di Samsun e di Kherasund. Il ponte inferiore brulicava di vita, risuonava di mille rumori. La nostra nave offriva uno spaccato di umanità. In prima e seconda classe, sparpagliati qua e là, i ricchi si annoiavano, mentre sotto di loro formicolava una folla in cui ognuno cercava di conquistarsi uno spazio sufficiente per distendersi senza avere in faccia piedi o gomiti disconosciuti. Avevamo tutto il tempo per renderci conto di quanto fosse privilegiata la nostra situazione. Senza dubbio, Cristina si mise a riflettere sulle differenze eccessive tra una classe e l'altra, a immaginare forse di essere guardata con invidia dalla gente che, pigiata sotto di noi, doveva probabilmente lamentarsi dell'ingiustizia della propria sorte. Ma io ho viaggiato più volte con un biglietto ponte e ho ben presente come vi si sta. Nessuno di quei passeggeri ha mai accordato un solo pensiero a coloro che stavano in alto. E se qualcuno dei miei vicini di allora fosse stato spostato in seconda, si sarebbe sentito ben infelice. Tutti avevano bisogno del chiasso della gente intorno, di avvertirne il calore, la voglia di lottare per sopravvivere. C'era chi contava il proprio denaro o si applicava con metodo alla caccia ai pidocchi lungo le cuciture bordate degli ampi pantaloni, chi si prendeva cura di un neonato, chi nutriva le galline prigioniere in tonde ceste traforate. Chi si tagliava le unghie con un coltellino da tasca o passava un fiammifero spezzato tra i denti sporchi di un pettine. Chi ricuciva una pantofola mentre un altro pizzicava in sordina le corde di una viola. Alcuni distribuivano gocciolanti fette di anguria, altri aspettavano in coda davanti alle cucine muniti di un bollitore e di un pizzico di tè. Sono sicura che ognuno di loro rimuginava nel frattempo vecchie storie o faceva piani per l'avvenire. con i suoi vecchi tetti dalle tegole bombate, le sue stradine lastricate e impregnate dell'odore di pesce e i suoi giardini chiusi tra mura, dove il rosso del fiore di melograno esplode sullo sfondo blu del mare, Trebisonda era annidata al riparo della costa. Si sarebbe detta una città italiana se non fosse stato per i bianchi minareti da dove il muezzin invocava Allah con il nome turco di Tanri. Nelle sue memorie l'imperatore Babur scrive che Tanri significa divinità. Tale termine, usato in tutta l'Asia, è probabilmente di origine mongola. Per mezzo di una chiatta, dalla magnifica prua arrotondata, la nostra Ford fu portata a terra a piccoli colpi di remi. Ritrovai, prospiciente la piazza principale, il vecchio albergo sempre traboccante di piante ornamentali. Un compatriota venne a farci visita e vedendoci non dissimulò la sua sorpresa, poiché gli avevano detto che una signora e un ragazzo di 15 anni erano arrivati dalla Svizzera. Tutte e due indossavamo pantaloni lunghi. Egli si occupava dell'acquisto di nocciole della Turchia per conto di cioccolatai svizzeri, ma poteva contare soltanto sulla 20ª parte del raccolto, dato che il resto era inviato in Germania. Oltre a questi frutti, Trebisonda esportava olio di delfino, prodotto sul posto. Ma i mammiferi avevano ormai capito che quei litorali erano luoghi pericolosi e se ne tenevano a debita distanza, cosicché le raffinerie d'olio erano praticamente senza lavoro. L'uso di questo tipo di olio risale ai tempi di Senofonte, in cui uomini se ne servivano al posto dell'amato olio di oliva e impastavano il pane con farina di noci lisce, termine che forse usavano per designare le nocciole. Trebisonda sembrava per metà ancora addormentata. Uomini dalle calzature con la punta rialzata camminavano lenti nelle vie bagnate e osservandoli mi chiedevo come erano tagliati quei loro calzoni dal fondo ampio di foggia simile alla vraca dei cretesi. Le donne erano senza velo, ma alcune tenevano fra le labbra un angolo del fazzoletto da testa come se temessero la luce su quella parte del viso. Tale usanza diventava via via più diffusa inoltrandosi nell'interno del paese. Il console di Francia, la cui casa si ornava di un vecchio pergolato, ci informò che non vi erano francesi nella regione. Anche il console italiano era pressoché disoccupato da quando i battelli del suo paese non facevano più scalo nel Mar Nero, avendo i russi chiuso loro i propri porti. Attualmente era una linea tedesca a occuparsi delle esportazioni. Nessuno ci confermò le informazioni dateci dal nostro ingegnere di Istanbul, anche se corrispondeva a verità che ai tedeschi venivano regolarmente confiscate le pellicole. Decisi allora di rimandare alla casa editrice tutto il patrimonio del mio precedente viaggio svoltosi lungo il medesimo itinerario, un gran numero di fotografie destinate a illustrare gli articoli inviati a cadenze di 10 giorni. Era preferibile privarsene piuttosto che rischiare la perdita di tanti preziosi ingrandimenti. In questa regione di frontiera occorreva da sempre muoversi con cautela. Quando A.G. Brownie, l'erudito persiano, viaggiava per queste contrade nel secolo passato, temendo di vedersi sottrarre le proprie carte, scriveva il suo diario di nascosto per non sollevare i sospetti dello zaptie incaricato di sorvegliarlo. Non riuscimmo a incontrare il governatore, a cui volevamo chiedere alcune lettere di raccomandazione per quando ci saremmo trovate nella zona degli alti rilievi. Andando alla sua ricerca, salimmo per la costa scoscesa tra frutteti, ville e foreste. Visto così dall'alto, il mare appare come un'immensa massa blu genziana. Dicono che se il cielo è terso si vede la catena del Caucaso. Scrutai l'orizzonte sperando di individuare quel massiccio attraversato 9 anni prima, ma soltanto la memoria me ne evocò alcune immagini. Eravamo pronte a conquistare le montagne passando per un colle della catena pontica a un'altitudine di 2800 metri. Un cambiamento di quota rapido, ricco di contrasti. D'altronde, per ben 3 volte, saremmo salite dal livello del mare alle grandi altezze, dal Mar Nero in Armenia, dal Caspio al Khorasan e dal Turkestan in Afghanistan. La catena pontica. Per molto tempo Trebisonda e la costa della Colchide furono una colonia greca. La città fu chiamata Trapezunte per la montagna a forma di tavola che la domina. Quando vi giunsero Senofonte e i suoi 10.000, dopo una marcia di 1.000 leghe, celebrarono l'avvenimento sacrificando a Zeus e a Eracle. Organizzarono i loro giochi atletici su uno dei pendii. «Questa collina va benissimo per la gara podistica», disse Dracontio. Gli uomini però si lamentavano dell'impossibilità di lottare su un suolo tanto duro e ineguale. Dracontio rispose: «Poco importa, chi perderà si farà soltanto un po' più male». Beh, passarono alcuni secoli prima che Trebisonda diventasse il punto d'arrivo di una delle più antiche vie commerciali di cui conosciamo la storia, la transatlantica via della seta. Tra gli innumerevoli guerrieri, mercanti, ambasciatori, letterati che la percorsero, sono certa che Marco Polo, di ritorno dalla Cina, ebbe una gioia pari a quella degli straimati 10.000 quando finalmente vide le acque del suo Mediterraneo. Egli era accompagnato dal padre e dallo zio, esperti navigatori. Dopo una lunga traversata avevano consegnato al Khan di Persia la bella principessa mongola Khogatun. Coperti di doni di ogni genere, preferirono evitare i rischi di un ritorno attraverso la Siria, occupata in quel tempo da egiziani ostili. Per tale motivo essi passarono da Trebisonda, sicuri di esservi ben accolti dalla casa regnante dei Comneni, imperatori bizantini cristiani. Lì rifugiatisi in seguito alla Quarta Crociata. Ora Trebisonda era alle nostre spalle. In viaggio per Erzurum attraversammo una verdeggiante vallata ancora battuta dall'umida brezza marina. I declivi erano ricoperti di noccioli disposti in file regolari come piante da tè. Qua e là, quasi dimenticate sui fianchi delle colline, alcune cappelle greco-cristiane mostravano la loro sobria architettura dai volumi semplici, navata cubica, abside a emiciclo. Giunte a un'altezza di circa 2000 metri, il colle di Zihana ci avvolse in una fredda nebbia. La gioia di vedere apparire il mare da quel medesimo punto dove forse Senofonte lo vide per la prima volta ci fu negata. Gümüşhane, il villaggio più importante dei dintorni, deve essere probabilmente identificato con l'antica Gimnia dei Greci. Sebbene, secondo lo storico Grote, sembri assolutamente impossibile stabilire con sicurezza la via seguita dall'Eufrate fino a Trebisonda. I 10.000 si inerpicarono su un monte chiamato Teche, non identificato. Forse si tratta del massiccio che comprende il colle di Zihana. Era il 402 prima della nostra era, i greci avevano combattuto come mercenari agli ordini di Ciro il Giovane, ma il principe persiano era stato sconfitto dal fratello Artaserse Mnemone a Cunassa ed essi avevano deciso di tornare in patria passando dal Mar Nero a nord dei luoghi in cui si trovavano. Dei 14.000 uomini presenti alla partenza, circa 9.000 raggiunsero la meta. Il fatto che fossero riusciti ad attraversare vittoriosi i regni di quelle montagne doveva in seguito convincere Alessandro Magno che con un buon esercito sarebbe stato possibile compiere straordinarie imprese in Asia. I 10.000 soffrirono i rigori dell'inverno armeno e dovettero farsi strada fra la neve alta. Occorsero ancora 5 tappe attraverso le regioni dei Macroni, degli Scitini e della Colchide prima di raggiungere Trebisonda. Durante il percorso dovettero fermarsi 4 giorni. Avevano mangiato miele in quantità così grande da esserne come ubriachi o pazzi. Per noi, quando arrivammo verso sera, Gimnia non era che un villaggio avvolto dalle tenebre dove vedemmo alcuni camion parcheggiati davanti alla locanda. Spossate come eravamo dalle infinite curve di una strada argillosa e bagnata, fu una vera festa ristorarci con un bicchierino di rachi. Questo liquore mi liberò del forte gusto di petrolio di cui era impregnato il piatto di fegato saltato in padella. Anche i camionisti e i cantonieri nostri vicini apprezzavano molto tale bevanda. Eravamo da poco salite nella nostra rudimentale camera quando uno zaptie venne a chiederci i passaporti. Fino al momento in cui non ce li avesse resi, saremmo state in qualche modo in suo potere. Al mattino, prima di partire, comprammo un cestino di quelle mele succose per cui Gümüşhane è famosa. Un clima da vacanza aleggiava intorno alle case di questo villaggio montano, case che con i loro balconi e i loro tetti inclinati sembravano quasi degli chalet. Erano le ultime costruzioni di tal genere che avremmo visto, poi ci sarebbero stati solo cubi di terra essiccata dal tetto piatto. Anche le colline diventavano austere, nessun tenero prato ne ammorbidiva il terreno, soltanto rari ciuffi di erba si alzavano rigidi sulla terra grigia. Incrociavamo spesso la pista delle carovane lastricata e scoscesa. Dimenticando di viaggiare in macchina, a più riprese mi ritrovai ad avere le reazioni proprie del lento viandante di carovane. Bisogna raccogliere qui i rami secchi perché so che dopo non ne troveremo più di legna. Ragionavo con grande serietà. Oppure, su queste alture gli animali avranno di che brocare questa sera, ma domani sarà necessario metterci in cammino all'alba per passare il colle di Kop prima di notte. Tra la moltitudine di mercanti che ingombrava la strada, molti fantasticavano sulle merci che presto avrebbero caricato: sete e turchesi, tappeti e lapislazzuli. Chi traffica con l'Oriente fa fortuna. E ai nostri tempi, forse ancor più di quando Plinio scriveva: il mar arabico ci invia le sue perle, e secondo le stime più moderate, la Siria e l'India traggono dal commercio con il nostro impero 100 milioni di sesterzi l'anno, circa 1 milione di sterline. Tale è il prezzo che lusso e vanità femminile ci costano. Alla nostra 8 cilindri occorsero appena 12 ore per coprire quei 350 km di strada di montagna e non i 10 o 15 giorni impiegati dai carovanieri, secondo lo stato delle bestie da soma. Tuttavia, avevo ancora ben presenti i miei 2 viaggi in carovana più a est su quella stessa via della seta, pista smisuratamente lunga che attraversa paesi deserti e morti, che costeggia greti, gole, rare oasi, paludi malsane e pullulanti di insetti. Inoltre, ero stata sufficientemente plasmata dalla vita a bordo di piccoli velieri per sentirmi legata al vento al pari di un marinaio. Brezze carezzevoli o violente tempeste suscitano in me sentimenti inimmaginabili agli uomini di terra. Sono contenta di avere, ancora molto giovane, abbandonato la mia casa per seguire la rotta tracciata dall'astuto Ulisse. Contenta di aver vissuto la vita del mare, del deserto, invece di aiutare mio padre a esaminare la setosa e profonda morbidezza delle lontre di mare, a valutare le partite di volpi argentate dalle code arruffate o ancora a scegliere gli ultimi modelli di Parigi. Contenta di aver realizzato in buona parte ciò che ero intenzionata a fare, di aver finalmente acquisito la coscienza di quanto siano brevi le gioie della vanità. Ora, quale un ragno che distende la sua tela fino alle estremità dei rami, ho ampliato il mio orizzonte. E come se avessi lasciato ovunque qualcosa della mia personale sostanza, mi sento direttamente coinvolta da ciò che avviene lungo i fili della mia esperienza. In un'ampia vallata, Bayburt erigeva la sua fortezza di pietra color fiamma con muri merlettati a guardia del villaggio che si distendeva ai suoi piedi. Incontrammo gruppi di 4 o 6 camion. Gli autisti, capi delle odierne carovane, erano ben disposti verso di noi. Ci scambiavano probabilmente per ricche turiste e si sarebbero stupiti nel sapere che non ci sentivamo così diverse da loro. Anche noi ci stavamo guadagnando la vita, dandoci il cambio al volante giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Ma la nostra mercede, meno immediata della loro, dipendeva non dai chilometri percorsi, ma dalla quantità di pagine annerite di scrittura. Un vento selvaggio imperversava sul colle dalle cime arrotondate. Là, nei pressi di una casupola solitaria, ci arrampicammo su una piattaforma in cemento dove era fissata un'enorme campana di metallo chiaro, tutta decorata di santi ieratici, in rilievo su un medaglione dallo sfondo di smalto blu. Destinata un tempo a una chiesa russa, ora essa suona per i viaggiatori sperduti nella tempesta, quando la pista scompare, sepolta da metri di neve. Dal loro alto piedistallo, quei santi contemplano instancabili le centinaia di leghe di una contrada ormai troppo antica ed estenuata per sollevarsi a quelle audaci quote. La voce metallica doveva risuonare ben lontano tra quel grande ondeggiare di terre disboscate. Alcune cime erano ancora chiazzate di neve tenace, come macchie di bianco lasciate da nuvole gonfie. Ombre di splendido indaco spezzettavano il paese in un puzzle gigantesco. Respirai profondamente, certa che quei luoghi magnifici avrebbero ormai fatto parte della mia memoria. Leggere la storia dell'Armenia, scandita da guerre continue, conferma la prima impressione di terra usurata, così lacerata dai suoi potenti vicini che potrebbe chiamarsi la Polonia del vicino Oriente. Durante l'età del rame, prosperi centri sorgevano in questa valle che ospitò colonie neolitiche circa 7-8 mila anni avanti Cristo. Prima che i persiani cedessero la regione ad Alessandro Magno, il paese era stato conquistato sia dagli Assiri sia dalle truppe del faraone Tutmosi III. I parti dominarono l'Armenia, contesa loro dai persiani, fino a che essa non fece parte dell'impero romano d'Oriente. Nell'anno 415 d.C. Anatolio fondò Teodosiopolis, l'attuale Erzurum. Gli arabi si batterono in sua difesa contro gli imperatori di Bisanzio. In seguito i Selgiuchidi ne divennero i padroni incontrastati. La regione fu poi occupata successivamente dai mongoli di Gengis Khan, dai turchi di Tamerlano e dagli ottomani. Ai piedi delle colline scintillavano le giovani acque dell'Eufrate, scivolando fra i ciottoli del Greto. Lo attraversammo. Parallela al fiume correva la nuova ferrovia, non del tutto completata, che collegava Scutari a Erzurum. Si diceva che il viaggio durasse 2 giorni e 2 notti. Avevamo raggiunto l'altopiano anatolico, delimitato dagli archi convessi del Tauro e dalla catena pontica. Una corona di montagne simile a quella circonda l'altopiano iraniano a nord e a sud, un terzo cerchio colossale formato dalle catene del Kunlun e dell'Himalaya, cinge l'alto paese del Tibet. Con il pensiero immaginavo quel susseguirsi di altipiani racchiusi entro elevati rilievi rocciosi, terminanti ognuno in un poderoso nodo di montagne da dove scaturivano fiumi altrettanto grandiosi che andavano a gettarsi a est. Che impressionante disegno in rilievo ha ripetuto la Terra per ben 3 volte. Noi eravamo vicine al primo di quei nodi, quella fredda Armenia, spazzata dai venti e dominata dalla vetta dell'Ararat, dall'alto dei suoi 5.165 metri, le cui acque sfociano lontano nei bacini del Mar Nero e del Caspio, prigioniero della terra e del torrido Golfo Persico. L'ansa del grande arco iraniano, non del tutto chiusa all'estremità sudorientale dalla catena dello Zagros, culmina nei 5.580 metri del Damavand ed è collegata attraverso le montagne del Khorasan e dell'Hindu Kush a quelle del Pamir. Da questo immenso groviglio di vette nascono i fiumi che si getteranno verso lo Xinjiang e il Turkestan russo a nord, verso l'Afghanistan e l'India a sud. Ho visto il Tarim, il Sir Daria e l'Amu Daria, il Harirud, il Helmand e il Kabul. Tuffandomi con gioia nelle loro acque, sia con tempo da neve, sia sotto il torrido calore di mezzogiorno, ho imparato ad amarli. Il Tibet, terzo cerchio colossale, è nascosto dai profili delle più alte montagne che esistano. Sapevamo che a est di questo immenso paese, ancora in parte mitico, vi erano convulsioni e strozzamenti rocciosi di imponenza inimmaginabile, da cui scendono impetuosi fiumi per buttarsi poi nelle acque dei golfi del Bengale, del Siam o nel lontano Mar Giallo, saturo di loess mongolo. Quei fiumi, prima di dirigersi verso destini tanto differenti, scorrono per un tratto vicini, in gole parallele, dalle forme così selvagge che persino i flemmatici geologi ne rimangono stupiti. Anatolico, iraniano, tibetano, 3 vasti altipiani in successione, ognuno più grande e più elevato del precedente, sulle cui montagne abitano gruppi umani estremamente diversi, una varietà sufficiente per giustificare molte vite dedicate ai viaggi, una bellezza sufficiente perché si provi il bisogno di ringraziare l'autrice di una diversità tale che nessuna intelligenza umana potrebbe mai concepire.